in primo piano. Buona giornata, benvenuti alla nostra rassegna stampa. Buona domenica da Mauro Meazza con voi questa mattina, insieme a Peter Bescapè dall'altra parte del vetro, per raccontarvi quello che potete trovare sui quotidiani questa mattina in edicola. Naturalmente il terremoto, il terribile terremoto che ha sconvolto il Nepal, campeggia su tutte le prime pagine. Non tutti i numeri di questa terribile contabilità dei, per adesso, dei morti si è fermata a 1900, l'avete sentito da Valeria De Rosa nel corso del giornale radio che ha preceduto questa rassegna stampa. Dicevo, non tutti i numeri possono essere aggiornati, chiaramente per motivi legati alla chiusura dei giornali nella notte. Trema il tetto del mondo, ad esempio, è il titolo principale di Avvenire, che utilizza quasi tutta la prima pagina appunto per segnalare l'evento. I morti concentrati nella regione della capitale, Kathmandu, e naturalmente si riferisce anche di danni in Cina, in Tibet, in India. C'è una corsa contro il tempo per gli aiuti, i testimoni che parlano di voragini enormi e si scava a mani nude. Sempre in primo piano, anche un po' su tutti i giornali, anche su Avvenire, visto che già vi stiamo raccontando di questa prima pagina, le manifestazioni svoltesi ieri per celebrare il 70° anniversario della liberazione, il 25 aprile. Avvenire sceglie un titolo che dà spazio al discorso del Presidente della Repubblica, Mattarella: l'Italia del 25 aprile è futuro per tutti, così segnala Avvenire le manifestazioni. Ma il Messaggero, ad esempio, sottolinea alcuni eventi che si sono verificati ieri, alcuni eventi niente affatto belli, viene da dire. Liberazione, cortei e veleni, scrive il Messaggero nel suo titolo principale, nel titolo che occupa la maggior parte della prima pagina. 70 anni del 25 aprile a Milano, gli insulti alla Brigata Ebraica e al PD. A Roma, striscioni su Salò e il Duce. E poi appunto il discorso di Mattarella, ricordato anche nel titolo del Messaggero: resistenza, fondamento della nazione, la democrazia e anche lotta alla corruzione. Riferisce già nel richiamo di prima pagina il Messaggero: a Milano i centri sociali hanno rovinato la manifestazione, insultando i rappresentanti della Brigata Ebraica e il PD. A Roma invece è stato esposto a testa in giù il busto di Mussolini. Queste gli aspetti che si potrebbero anche liquidare come folcloristici, se non fossero invece segnali di stupidità che hanno costellato ieri le manifestazioni per il 25 aprile, per il 70° anniversario. Una notizia locale per la prima pagina del Messaggero, ma con riflessi potenziali un po' in tutta Italia. Roma, sciopero della metropolitana via ai licenziamenti dei dirigenti colpevoli. Come ricorderete, nei giorni scorsi ci sono state le proteste per questo sciopero dichiarato anche con modalità abbastanza inconsuete, con treni fermati a metà delle corse, e il comune ha deciso che tre figure apicali dell'ATAC, cioè la società che gestisce il trasporto appunto a Roma, sono i responsabili di questo stop anticipato, e quindi licenziamenti per i dirigenti che non hanno gestito come si doveva lo sciopero, e quindi hanno poi causato le proteste dei passeggeri, proteste anche molto violente, appunto molto vivaci, verrebbe da dire, che si sono viste a Roma qualche giorno fa. Cambiamo testata, andiamo sul Corriere della Sera, il Corriere che dà il suo titolo principale al terremoto: migliaia in Nepal sotto le macerie, distrutto il centro della capitale, Kathmandu, crolla la torre simbolo che è patrimonio dell'UNESCO. E poi invece più in basso l'altro titolo per la vicenda per il 70° anniversario della liberazione: insulti alla Brigata Ebraica e Mattarella appunto che parla di eroi della libertà. Intanto una polemica politica sta prendendo corpo a proposito della uccisione di Loporto, il cooperante italiano che è stato ucciso, come ormai abbiamo saputo, abbiamo avuto conferma, da un drone statunitense, da un attacco a una base di terroristi da un drone statunitense, ucciso appunto Loporto e un altro cooperante. Ma sta prendendo corpo appunto una polemica da quando abbiamo sapevamo della morte di Lo Porto. Gli 007 scrivono: Giuseppe Sarcini e Fiorenza Sarzanini sapevano da metà marzo di ostaggi morti, quindi avevano già delle indicazioni relative appunto anche a Giovanni Lo Porto, che era stato rapito nel 2012. Intanto la CIA e la Commissione Intelligence del Senato americano hanno aperto delle indagini indipendenti. Il Fatto Quotidiano decide di dare alla vicenda di Lo Porto una sottolineatura polemica, mette una foto di Obama e Renzi sorridenti durante l'incontro dei giorni scorsi, e polemicamente la frase del padre di Giovanni Lo Porto: che avevano da ridere quei due alla Casa Bianca il giorno del vertice. Obama sapeva, impossibile che non l'abbia detto a Renzi, le risate sono mancanza di rispetto. Diversa la ricostruzione di questa vicenda si trova su La Stampa. Ecco perché Obama non ha parlato, si legge nelle pagine interne dal lavoro di Paolo Mastrolilli, l'inviato a New York. Il presidente Obama sapeva della morte di Giovanni Lo Porto quando ha ricevuto il premier Renzi a Washington il 17 aprile scorso, ma non ha potuto informarlo perché l'intelligence americana non aveva ancora completato le sue analisi e bisognava finalizzare i preparativi per informare tutte le parti coinvolte. A confermarlo la stessa Casa Bianca, con una dichiarazione ufficiale che è stata data alla stampa, con l'obiettivo di chiarire la vicenda e possibilmente chiudere la polemica. Questa la dichiarazione appunto che viene riportata sulla stampa. Quindi Obama sapeva ma non aveva tutte le conferme, era stato informato ma non aveva tutte le conferme, e questo sarebbe il motivo appunto della versione di Washington per cui Renzi non è stato informato al momento della sua visita il 17 aprile. Vediamo qualche altro giornale. Che, ad esempio Repubblica, che decide di dare naturalmente molta rilevanza al terremoto in Nepal, una grande foto che mostra un uomo che viene estratto ancora vivo dalle macerie. Nepal, terremoto sul tetto del mondo, migliaia di morti, valanghe sugli alpinisti. Ma il titolo più evidente della prima pagina, se eccettuiamo la foto appunto dedicata al terremoto in Nepal, è per la settimana politica che si apre domani. Partito Democratico sfida di Renzi, 4 voti di fiducia per l'Italicum. Bersani si ribella, i Dem non hanno padroni. E poi nello stesso titolo, nel corpo dello stesso titolo, si ricorda anche, si segnalano anche gli insulti alla brigata ebraica che si sono ascoltati ieri durante le celebrazioni per il 25 aprile. Repubblica ha un'intervista a Federica Mogherini, commissario, come sappiamo, il commissario UE alla politica estera dell'Unione. Immigrati, agiremo in Libia. E poi serve un mandato ONU contro gli scafisti, questo il richiamo dell'intervista che viene fatta da Andrea Bonanni a Federica Mogherini. Sulla vicenda Lo Porto anche Repubblica segnala in prima pagina che erano in corso delle trattative con il Pakistan, ma poi la CIA decise di attaccare, e quindi questo ha impedito di proseguire le trattative e ha portato poi alla morte del nostro cooperante. Ancora da Repubblica si segnala in prima una notizia che trovate un po' su tutti i giornali, cioè l'addio di Piech, il leader della Volkswagen. Duello in Volkswagen, vince Winterkorn, il patriarca Piech lascia il gruppo. È la fine di un'era, scrive Andrea Tarquini in prima pagina di Repubblica, nel Gotha dell'industria tedesca. Perché c'è un duello degno di un'opera wagneriana che si conclude con la disfatta del patriarca. La guida del gruppo Volkswagen a Ferdinand Piech ha rassegnato infatti le sue dimissioni. Abbiamo ancora qualche secondo, vi segnalo sulla stampa e sul Secolo XIX, come sapete collegate da una identica proprietà, la intervista al segretario generale delle Nazioni Unite Ban Ki-moon. Ci torneremo appena dopo questa intervista, nel corso della quale ascolteremo anche le informazioni sul meteo e sul tempo di questa giornata. Il Secolo XIX decide di dare questa intervista, il suo titolo principale di prima pagina, tragedia dei migranti, intervista al segretario generale dell'ONU, niente militari, dice Ban Ki-moon, piuttosto aiuti ai profughi. In Libia, è l'indicazione di Ban Ki-moon, un errore colpire i barconi. Ma adesso ci fermiamo per qualche minuto, torniamo tra poco. In primo piano. E ancora una buona domenica da Mauro Meazza, bentornati alla nostra rassegna stampa. Vi dicevo, appunto, vi annunciavo qualche minuto fa questa intervista al segretario generale dell'ONU, Ban Ki-moon, che viene presentata dalla stampa e dal Secolo XIX. L'intervista è stata realizzata da Paolo Mastrolilli. Ban Ki-moon è abbastanza drastico sulla impossibilità di una soluzione militare o pseudo-militare nei confronti delle migrazioni alle quali stiamo assistendo in questi anni oramai nel Mediterraneo. Non esiste, e questo proprio l'inizio della intervista che si legge sulla stampa e si legge in identico formato sul Secolo XIX, non esiste una soluzione militare alla tragedia umana che sta avvenendo nel Mediterraneo. Scrive Paolo Mastrolilli, è il primo messaggio questo che il segretario generale dell'ONU Ban Ki-moon manda all'Italia e all'Europa che pensano di bombardare i barconi in partenza dalla Libia. Il secondo messaggio in questa intervista, che è alla vigilia della visita a Roma che lo porterà domani dal premier Matteo Renzi, martedì da Papa Francesco, è diretto invece ai paesi che frenano sull'accoglienza. Sono cruciali, dice Ban Ki-moon, canali legali e regolari di immigrazione. Chiede Mastrolilli, al Consiglio europeo di giovedì sono state varate alcune misure per affrontare la crisi dei migranti. L'Italia vorrebbe distruggere i barconi prima della partenza. L'ONU è pronta a dare autorizzazione legale per azioni del genere. Sono a conoscenza, risponde Ban Ki-moon, di queste notizie, ma tale dibattito sottolinea come il Mediterraneo stia diventando rapidamente un mare di miseria per migliaia di migranti, l'urgenza di affrontare la loro situazione disperata. Il focus principale delle Nazioni Unite è la sicurezza e la protezione dei diritti umani dei migranti e di coloro che chiedono asilo. Ed è cruciale che la concentrazione di tutti sia su salvare vite, inclusa l'area libica delle operazioni di ricerca e soccorso, che è quella da cui vengono la maggioranza delle richieste di aiuto. La sfida non riguarda solo il miglioramento dei soccorsi e dell'accesso alla protezione, ma anche assicurare il diritto all'asilo del crescente numero di persone che in tutto il mondo scappano dalla guerra e cercano rifugio. Sostanzialmente, quindi, Ban Ki-moon non dà questa disponibilità, non sembra dare questa disponibilità a un intervento quasi bellico, similbellico, insomma, sui barconi degli scafisti, ma rilancia invece sulla necessità di una assistenza in più paesi, inclusi appunto quelli da cui provengono la maggior parte dei profughi. Ricordiamo che quello che vediamo poi nel Mediterraneo è l'ultima ondata di appunto migrazioni imponenti che si svolgono un po' in Africa e in parte appunto anche nel Medio Oriente, e dovute alla guerra, alle guerre civili anche che sono in corso nei diversi paesi. E quindi lei ha detto al premier Renzi, gli chiede il Paolo Mastrolilli, che il problema dei migranti è responsabilità condivisa, però alcuni paesi europei resistono all'idea di ospitarli. E cosa possono fare ONU e i paesi membri dell'ONU per aiutare a trovare una soluzione? E risponde: con oltre 1700 morti e quasi 40.000 attraversamenti nel Mediterraneo solo durante i primi 4 mesi di quest'anno, la dimensione di questa sfida richiede una risposta globale. Credo che la comunità internazionale abbia una responsabilità condivisa per assicurare la protezione dei migranti e dei rifugiati. Le misure annunciate di recente in Lussemburgo e a Bruxelles sono un importante primo passo per un'azione collettiva europea. Questo è l'unico approccio che può funzionare per un problema di natura così ampia e transnazionale. La stabilità in Libia, lo incalza Mastrolilli. La Libia, come sappiamo, è un paese devastato da praticamente tre sostanzialmente riferimenti di governo, se così si può dire. La stabilità in Libia sarebbe il primo passo per fermare insieme il traffico di esseri umani e gruppi terroristici. La mediazione dell'inviato dell'ONU, Bernardino Leone, è ancora l'opzione migliore per centrare questo obiettivo. Come sta procedendo il negoziato? La risposta non è rassicurante, perché dice Ban Ki-moon: sono molto preoccupato per l'instabilità in Libia. Anni dopo la rivoluzione il processo di transizione resta ancora appeso, i civili stanno subendo l'urto delle violenze. Credo che non ci siano alternative al dialogo. Il mio rappresentante speciale Bernardino Leone, la sua squadra continuano a lavorare per aiutare le parti libiche coinvolte ad arrivare insieme a uno spirito di compromesso. Gli atti di terrorismo e di estremismo sono un duro richiamo al fatto che una soluzione politica all'attuale crisi va trovata rapidamente. Questo la dichiarazione di Ban Ki-moon, che però appunto al di là della forma molto accurata non sembra lasciare grande ottimismo, non lascia trapelare grande ottimismo su come stanno andando le vicende le trattative di Bernardino Leone per una se non pacificazione quantomeno una maggiore stabilità in Libia. Cambiamo testata, torniamo per qualche istante sul Corriere della Sera, perché all'interno del Corriere della Sera troviamo un sondaggio che è dedicato proprio all'Italia, come leggevamo nella prima parte di questa rassegna stampa. Il titolo di Repubblica, l'Italicum, appunto come momento decisivo, anche ad Alessandro Milan, ma momento chiave della settimana politica che si apre domani. Ecco, ma allora quanto ne sappiamo noi italiani dell'Italicum? Pochino, verrebbe da dire, perché nel sondaggio di Nando Pagnoncelli che viene presentato oggi sul Corriere della Sera dice si scopre che sostanzialmente solo il 35% degli italiani sarebbe informato, perché poi in realtà ovviamente si tratta di un campione rappresentativo di tutta la popolazione. Il 35% degli italiani, dicevo, sarebbe informato dell'Italicum, mentre un 65% è diviso tra chi non ne ha mai sentito parlare, 7 su 100, e poco so che se ne sta discutendo, il 58%. Quindi non sembra che la nazione tutta condivida e sia in grado anche di capire che cosa si sta svolgendo, su che cosa si stanno dividendo. Lo stesso partito di maggioranza, il partito che sta esprimendo in questo momento, il Presidente del Consiglio. E poi come giudica questa proposta? Sostanzialmente qui passiamo però a minoranza della minoranza, perché stiamo ragionando di questo 35% che dobbiamo pensare sia informato abbastanza da poter giudicare appunto la proposta, e viene fuori un quadro abbastanza diviso a metà, perché come poi riassume il titolo, un elettore su due dice no all'Italicum, i favorevoli all'Italicum, cioè appunto la nuova legge elettorale, prevalgono solo tra i Dem. La maggioranza degli intervistati, si spiega poi, si dichiara contraria ai capilista bloccati, vuole invece le preferenze. Questo il sondaggio che trovate sul Corriere della Sera. Ma cambiamo argomento, perché sul Sole 24 Ore di oggi presentiamo il primo rapporto della Fondazione Hume Sole 24 Ore dedicato alle disuguaglianze, cioè che significa appunto la distribuzione non solo dei redditi ma anche delle opportunità di reddito nel mondo e in Italia. E si scopre un po' a sorpresa, rispetto a quello che ci siamo sentiti dire in questi anni, che il mondo, cioè che a livello globale in realtà c'è una disuguaglianza in diminuzione, cioè il divario di opportunità e anche di ricchezze tra le nazioni complessivamente è in diminuzione dall'anno 2000 a oggi. In Italia però cresce il divario tra nord e sud, e questo è proprio il titolo della prima pagina del Sole 24 Ore. Poi nelle prime quattro pagine Naturalmente tutti questi dati vengono esaminati e analizzati dai nostri colleghi. Il mondo è meno disuguale, in Italia cresce il divario nel sud, è il titolo. Nel nostro paese ci sono 9 milioni di esclusi e oltre la metà di questi 9 milioni sono nel mezzogiorno. Sempre dalla prima pagina del Sole 24 Ore, ma ci torneremo dopo, Grecia, pressing dell'Unione Europea sulle riforme, c'è allo studio un piano B in caso di default, cioè in caso che la Grecia poi non riesca a onorare in alcun modo i suoi debiti. Intanto Atene requisisce la liquidità degli enti locali, quindi porta a compimento una mossa annunciata già nei giorni scorsi, quella di sostanzialmente prelevare dagli enti locali per poter onorare le scadenze ormai imminenti. Torniamo allora sulla nostro rapporto condotto con la Fondazione IUM sulle disuguaglianze. Il pianeta complessivamente è un po' più uguale, così spiega il titolo che sormonta l'articolo di Riccardo Sorrentino. Se si considerasse il mondo come una economia unica, prevale un calo di divari tra i cittadini del mondo, cioè c'è stata, contrariamente appunto a quello che ci ha fatto pensare la crisi, questi lunghi anni di crisi, un avvicinamento tra i redditi, tra le disponibilità dei cittadini a livello mondiale. Ma se poi andiamo a guardare all'interno ad esempio del nostro paese, allora la situazione si fa decisamente meno rosea di così, perché, come riferiamo alle pagine 4 e 5 oggi sul Sole 24 Ore, ci sono 9 milioni di esclusi, soprattutto donne e giovani, in quella che ormai abbiamo cominciato a chiamare terza società, cioè riconoscendo appunto una prima società che è quella di coloro che sono garantiti, dipendenti pubblici, dipendenti privati permanenti di grandi aziende, uno strato appunto, come ci ricorda Carmine Fotina, con una forte rappresentanza politica e sindacale. Poi c'è una seconda società che possiamo individuare come soggetti più esposti al rischio, le piccole imprese, gli addetti alle piccole imprese, i lavoratori autonomi, e poi ci sono però quei soggetti senza rete, cioè della terza società, il microcosmo, scrive Fotina, degli esclusi o degli outsider. Ci sono coloro che lavorano in nero, disoccupati che cercano un'occupazione, i lavoratori scoraggiati e soprattutto giovani e donne si ritrovano in questa categoria, una categoria, questa degli esclusi, che in Italia è decisamente sopra la media sia dell'OCSE sia dell'Unione Europea, considerandola appunto a 28 paesi. In Italia esclusi sopra la media, c'è una grafica che lo ricorda, oggi su Sole 24 Ore, il valore italiano è 28,8% come peso della questa terza società nel 2013, il livello UE è del 20%, noi appunto 28%, OCSE è al 17%. E poi riferisce Paolo Bricco nella pagina successiva: il sud sempre più distante, si amplia il gap con il nord, con la crisi c'è stata una maggiore divaricazione nella distribuzione della ricchezza tra l'Italia del centro-nord e quella del mezzogiorno. Quindi se la disuguaglianza mondiale è in riduzione, quella interna, quella italiana, invece segnala un preoccupante aumento. E a questo punto ci fermiamo per qualche istante. Traffico. In primo piano. E bentornati ancora, buona domenica da Mauro Meazza, bentornati alla segnalazione dei titoli di alcuni degli argomenti tra i più importanti che trovate sui quotidiani questa mattina in edicola. Vi abbiamo raccontato di questo primo rapporto della Fondazione IUM Sole 24 Ore sulle disuguaglianze nel mondo, disuguaglianze, ed è una buona notizia, in riduzione, ma invece la notizia meno buona è quella dell'aumento delle disuguaglianze, delle distanze appunto di redditi e di opportunità all'interno dell'Italia, che annovera ormai 9 milioni di esclusi, cioè persone che vanno dai disoccupati, lavoratori in nero, disoccupati che non trovano più o magari non cercano nemmeno più un lavoro. Tutto questo sulla prima pagina del Sole 24 Ore, è il titolo più importante ed è poi sviluppato nelle nostre pagine interne. Naturalmente la settimana che si apre domani avrà sostanzialmente due appuntamenti. L'uno è quello politico, ve l'abbiamo già segnalato da diversi giornali, cioè il voto sulla legge elettorale, sull'Italicum, e poi c'è la vicenda greca. Grecia, pressing della UE sulle riforme, scrive il Sole 24 Ore questa mattina in edicola. Ma la vicenda greca tiene banco anche su molti altri giornali. Tra l'altro si ritorna su questo diciamo questo momento di stizza che ha caratterizzato la conclusione del vertice di giovedì e venerdì scorsi, sulla, con queste prese di posizione un po' irrituali da parte di alcuni rappresentanti delle istituzioni europee, alcuni ministri delle finanze, che hanno definito Varoufakis, cioè il ministro delle finanze greco, un dilettante. Dilettante e perditempo, questa è stata la doppia definizione data a Varoufakis appunto dopo l'ultimo vertice, che ancora non ha visto appunto una puntuale indicazione del percorso che la Grecia intende condurre per una riduzione del suo debito e per onorare l'esposizione debitoria molto forte nei confronti dei creditori. La Stampa dedica appunto a Varoufakis un articolo di Stefano Lepri che parte dalla prima pagina e che è intitolato Gli azzardi del giocatore Varoufakis. Troppi bluff e zero riforme, lo show di Varoufakis è finito. Il ministro si difende via Twitter, ma ha perso la fiducia anche dell'Italia. Una grafica ci ricorda che appunto in questi tre mesi c'è stato sempre una certa pericolosità nelle mosse di Varoufakis, perché appunto tre mesi vissuti pericolosamente. Varoufakis viene nominato ministro delle finanze e la borsa di Atene già si presenta, non lo accoglie benissimo perché cede il 5%. Dopodiché a febbraio c'era stata quella uscita decisamente non felice sull'Italia a rischio bancarotta, e poi appunto questi continui incontri, questi ripetuti incontri con le istituzioni europee per cercare un accordo, una revisione del percorso di risanamento del debito greco, che in qualche modo tenga presenti sia le ragioni del nuovo governo greco guidato da Tsipras, sia le esigenze appunto dei creditori e dell'Europa tutta, con sullo sfondo questo incubo sempre della cosiddetta Grexit, cioè dell'uscita della Grecia dall'euro. La Stampa nelle pagine interne, proprio a corredo di questa descrizione, di questo articolo di Varoufakis che viene fatto da Stefano Lepri, ci segnala che cresce il rischio bancarotta della Grecia, l'Unione si spacca sull'uscita dall'euro, muro contro muro tra Atene e Bruxelles, tra i ministri ormai c'è chi evoca un piano B, così come vi dicevo si legge sul Sole 24 Ore. Sempre in queste pagine dedicate però alle questioni economiche rispunta la questione dei derivati. Qualche giorno fa sul Sole 24 Ore una inchiesta di Claudio Gatti ritornava sulla vicenda dei derivati, queste particolari polizze, se vogliamo chiamare così, che però spesso si trasformano in un boomerang, cioè costringono chi le sottoscrive a esborsi notevoli. Il tesoro, derivati sotto controllo, è il titolo dell'articolo in cui si segnala che non c'è nessuna preoccupazione da parte delle autorità monetarie italiane per la vicenda derivati, ma non così sembra pensarla Libero, perché proprio nella sua prima pagina il titolo più importante è Una bomba sotto il debito pubblico, perché i conti non tornano. Per farsi belli col calo dello spread e piazzare botte BTP, Monti e Renzi hanno siglato accordi suicidi con le banche, così ci siamo riempiti di derivati che ci fanno perdere decine di miliardi, il nostro rosso cresce sempre di più. Così Franco Bechis, che poi appunto spiega nelle pagine interne questa che lui chiama bomba sotto il debito. Dal 2011 al 2014, per farsi belli col calo dello spread, appunto, i governi hanno firmato accordi che hanno affossato i conti. In realtà poi qui andrebbe la vicenda è abbastanza complicata, ma sostanzialmente ci sono 37 miliardi di euro, sono stati calcolati 37 miliardi di euro di perdite potenziali, nel senso che nessuno ci ha chiesto né ci sta chiedendo questi 37 miliardi di euro, ma l'esposizione in derivati, se le cose andassero tutte in senso contrario a questa sottoscrizione, potrebbe arrivare a questa passività. Così appunto Libero, che dedica a questa vicenda dei derivati il suo titolo principale. Sempre su una questione economica, ma che riguarda invece più direttamente le imprese, la questione degli imbullonati. Ora i nostri lettori e ascoltatori Radio 24 sanno bene di cosa stiamo parlando, cioè di questo prelievo, questa estensione delle tasse locali anche sui macchinari fissati a terra, ma non in modo permanente, cioè praticamente un po' come tassare i mobili, se vogliamo trovare un paragone un po' al volo. Tassano i capannoni come fossero ville, questa dichiara, questo è il modo in cui viene presentata l'intervista al presidente di Confartigianato Imprese, che trovate su Il Giornale. Poi Il Giornale decide di dare il suo titolo più importante alla a questione dell'immigrazione. Liberazione, no invasione, così il titolo gioca, diciamo, mette accanto le celebrazioni per il 70° anniversario con l'allarme degli sbarchi. Gli islamici spalancano le porte di casa nostra, c'è posto per milioni di profughi. E poi riferisce sempre il Giornale, a Milano fischia la brigata ebraica, e la frase di Laura Boldrina, presidente della Camera: migranti come partigiani. Così oggi su Il Giornale. Torno per un istante sul Sole 24 Ore per segnalarvi che nelle pagine di Norme e Tributi l'OCSE annuncia una stretta da ottobre contro la cosiddetta evasione digitale, cioè azioni per la lotta alle elusioni e paradisi fiscali, specialmente da parte appunto di queste grandissime società del digitale, che sfruttano tutte le possibilità di collocare adeguatamente le loro sedi per pagare meno tasse. Si sta parlando anche da noi di un possibile intervento. L'OCSE è pronta ad agire, lo riferiamo oggi in Norme e Tributi. Abbiamo, credo, ancora 30 secondi o poco più, e allora i primi secondi li utilizziamo per ringraziare Peter Bescapè, che questa mattina mi ha accompagnato in regia, e gli ultimi invece li dedichiamo con perfidia ad Alessandro Milan. Come saprete, se domani non avremo occasione di sentirci, per settimana prossima non avremo occasione di sentirci con Alessandro, allora gli voglio dedicare questo titolo che trovo sulla Gazzetta dello Sport: una notte da Inter, e più sopra, diavolo che inferno, il Milan in ritiro, e Inzaghi, l'allenatore del Milan, che dice indegni. Sorride amaramente Peter Bescapè, per una volta tanto invece sorridono gli interisti. E allora buona domenica a tutti.